America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, Mario Platero, la Casa Bianca viaggiante è a Deauville ancora per qualche ora, perché questa sera il presidente Obama chiuderà la sua partecipazione al vertice del G8, in realtà chiuderà tutto il G8 e andrà in Polonia per una visita di Stato a Varsavia, una visita importante perché il presidente, come vedremo più avanti, riallaccia anche con l'Europa dell'Est, oltre che con i paesi europei, diciamo, del vecchio gruppo, quelli che hanno fatto l'Unione. Cominciamo a parlare però delle questioni economiche con Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore qui a Deauville. Allora Alessandro, l'atmosfera, com'è l'atmosfera a questo G8? L'atmosfera a Deauville è molto concentrata sulle questioni relative al Medio Oriente, sulla primavera araba che ha portato al ritorno alla democrazia in Egitto e in Tunisia e come la comunità internazionale può appoggiare questa transizione verso la democrazia. Verrà varato, con un comunicato che verrà diffuso tra poco, un piano di sostegno. Il Fondo Monetario riceverà l'incarico dal G8 di assumere un ruolo di primo piano nei finanziamenti, ma anche nel coordinamento dei programmi che questi paesi dovranno adottare per ottenere gli aiuti internazionali. Poi si mobiliteranno la Banca Mondiale, un po' tutte le banche di sviluppo regionali, e sono già partiti, come sappiamo, diversi aiuti bilaterali dagli Stati Uniti, dai paesi del Golfo, e ieri anche la Gran Bretagna ha annunciato il suo contributo. Ecco, hai detto che il Fondo Monetario avrà un ruolo centrale. In effetti il Fondo Monetario dovrà anche trovare un suo nuovo leader. Sappiamo che Christine Lagarde, ministro delle finanze francese, è in pole position, tutti danno per certo che sarà nominata lei. Secondo te verrà fuori qualcosa qui da questo vertice? C'è anche la posizione americana che non è chiarissima. Ma ieri Nicolas Sarkozy, che è il padrone di casa e quindi detta un po' l'agenda, ha preso una posizione credo intelligente, dicendo non è il G8 a dover decidere della successione a Dominique Strauss-Kahn e quindi a far passare la candidatura della Lagarde. Gli emergenti non hanno ancora e forse non presenteranno un loro candidato unico, ma vorranno avere qualcosa in cambio. In questo modo si farà passare la candidatura della Lagarde, ma non come una candidatura né dell'Europa né del G8, ma una candidatura che arriva attraverso consultazioni più ampie. Hillary Clinton da Parigi ha fatto sapere che comunque vede molto di buon occhio il fatto che ci siano donne di grande competenza in posizioni di vertice nelle organizzazioni internazionali. Ecco, infatti, devo dire però che questo è il punto, anzi il punto numero uno, perché Christine Lagarde è un candidato, secondo me, almeno impeccabile. Non mi sembra che, se dobbiamo partire dal punto di vista del merito, ci sia un candidato alternativo obiettivamente più bravo di lei. Due, appunto, è una donna e questo finora è stato ignorato da coloro che hanno fatto polemica sulla stampa internazionale. Per cui mi domando, ma insomma, questi paesi asiatici, se si fossero fatti sotto con qualcuno di veramente credibile, magari anche loro avrebbero avuto più credibilità, non sei d'accordo? Sì, credo che uno dei loro problemi sia stato proprio quello di non riuscire a convergere su un candidato unico, di non avere un candidato della qualità di una Lagarde. Ecco, qual è l'atmosfera sul piano gestione del debito, rapporto euro-dollaro? Credo che questo sia un tema che interessa molto i nostri ascoltatori. I partner degli europei credo che contestino un po' la gestione della vicenda della periferia dell'area euro, quindi della Grecia, ma anche del Portogallo e dell'Irlanda, con continui ritardi e dissensi all'interno dell'Europa che hanno acuito le tensioni sui mercati internazionali. Come vi dicevo, Barack Obama lascia la Francia, va in Polonia, ci sarà un incoraggiamento all'Europa dell'Est, Europa dell'Est che diciamo non era stata trattata benissimo in precedenti viaggi dal presidente americano, e dunque in qualche modo arriviamo alla chiusura di un cerchio che si è aperto in Irlanda, dove Barack Obama aveva trovato addirittura i suoi antenati, è passato per l'Inghilterra, l'alleato di sempre, diventato addirittura essenziale a questo punto, è andato in Francia dove c'è stato il G8, adesso in Polonia di nuovo con l'obiettivo di rincuorarla. Con me ai microfoni di America 24 Paolo Valentino, che ha passato molti anni qui negli Stati Uniti, è stato corrispondente anche a Bruxelles, è stato corrispondente da Mosca, dalla Germania, dunque è la persona ideale per cercare di decifrare questi rapporti bilaterali, anche perché ha intervistato Barack Obama in un'intervista one to one nell'ufficio Oval della Casa Bianca qualche tempo fa. E proprio allora, Paolo, buongiorno, mi senti? Ciao Mario. Ecco, stavo raccontando che proprio in quella tua intervista sul Corriere della Sera Barack Obama disse che non è vero che c'è freddezza tra Europa e Stati Uniti, che i rapporti restavano saldi. Allora non era molto realista, adesso forse le cose sono cambiate. Sei d'accordo intanto? Cosa è cambiato? Sono assolutamente d'accordo, è cambiato il quadro strategico. È successo che da allora a oggi il Mediterraneo si è riproposto come area strategica centrale di rilievo nello scacchiere internazionale, la primavera araba ha cambiato completamente il paesaggio del Nord Africa e lo sta continuando a cambiare, per cui paradossalmente proprio l'amministrazione che aveva esordito con l'idea di disimpegnare gli Stati Uniti dal teatro medio orientale per investire di più nel quadro asiatico dove si gioca la grande partita del futuro, invece si è ritrovata a dover investire di più nel Mediterraneo e questo paradossalmente rilancia il ruolo dell'Europa. L'altro elemento secondo me importante è che di fronte alla crisi economica, di fronte ovviamente all'emergere di nuove potenze, i BRICS, cioè dire Brasile, Russia, India e Cina, Obama cerca un riequilibrio per così dire ideologico, un riequilibrio di valori e quindi offre all'Europa questa chance di una collaborazione rinnovata e potenziata anche come contrappeso di valori, come modello alle nuove potenze emergenti. Quindi secondo me è un discorso molto interessante, con però una notazione che io farei, e cioè dire che Obama rivolge questa offerta, diciamo, all'Europa, ma in quanto fatta di singole nazioni, l'ha fatta in Inghilterra, l'ha fatta in Francia. Cioè sembra quasi che il presidente americano prenda atto di una opportunità perduta per l'Unione Europea e quindi si rivolge sì agli europei, ma in quanto singole nazioni, non già all'Europa nel suo complesso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da seguire in questo viaggio, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana, seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. William Adams, uno dei membri del gruppo hip hop The Black Eyed Peas, sta per presentare un album solista, si chiamerà Black Einstein. Dal suo ultimo album di William Adams ascoltiamo Heartbreaker. My mama told me, Willie, that ain't right, boy, now that ain't right. I'm so, so, so sorry, I'm so, so, so sorry. I didn't mean to break your heart, I didn't mean to break your heart. I'm so, so, so sorry, I'm so, so, so sorry. I didn't mean to break it, break it, baby. Look, baby, I'm a heartbreaker. Dalla Casa Bianca viaggiante al seguito del presidente Obama è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.